Il baule volante. Che giornata gloriosa! Con la strada gloriosa, il mercato glorioso, il glorioso portico d'oro. Aspetta, un portico d'oro? Oh, questa è la casa del ricco commerciante. Ah, che perdita sarebbe se non vi raccontassi questa storia. No, non si tratta del commerciante, ma di una persona abbastanza importante. Vedete, il mercante aveva così tanti soldi che avrebbe potuto spianare tutta la strada d'argento. Ma era un uomo saggio e un intelligente uomo d'affari. Sapeva come spendere i suoi soldi e anche come risparmiarli. Il mercante aveva un giovane figlio di nome Sven. Sven era un ragazzo pigro, molto pigro. Colazione! Grazie. Buongiorno, padre. Buongiorno, figliolo. Spero che tu abbia dormito bene. Oh, sì, l'ho fatto. Il lenzuolo dorato è molto meglio di quello normale. Anche se penso che dobbiamo togliere quei rubini. Pizzicano. Ah, Sven, non hai bisogno di un lenzuolo dorato pieno di rubini. A chi importa, padre? Noi siamo ricchi. In effetti sto organizzando una festa per i miei amici oggi. Ho appena comprato ad uno di loro una barca enorme. Voglio celebrarlo. Hai comprato una barca per il tuo amico? E lo stanno celebrando facendoti fare una festa? Che tipo di amici sono questi? Loro mi vogliono bene. Pensano che io sia il più grande. Ti vogliono bene solo per i tuoi soldi. Smetti di cercare di accontentare tutti, Sven. Non pensare a quello che gli altri pensano di te. Fai ciò che ami davvero. Ma mi piace davvero fare cose che rendono gli altri come me. Non conta? Non so cosa fare con te. Comunque, ascolta, figliolo, ho qualcosa di importante da dirti. C'è un vecchio baule in soffitta. Non è un normale baule, Sven. Stai crescendo adesso. Presto erediterai la mia ricchezza. Questo sarà tutto tuo. Voglio che tu mi faccia una promessa. Quando me ne sarò andato, qualunque cosa accada, non dare mai via quel baule. Mi hai capito? Promettilo, Sven. Sì, padre, lo prometto. Gli anni passarono. Un triste giorno, il mercante morì. Sven era ormai diventato grande. Era triste per suo padre. Ben presto fu abbastanza grande per ereditare la sua ricchezza. Cosa? Ho ereditato tutto? Sì, Sven, hai ereditato tutta la sua ricchezza. Ciò significa che tutta la ricchezza di tuo padre ora appartiene a te. Usala saggiamente, Sven. Ma la saggezza aveva da tempo lasciato Sven. Spese tutto allegramente ed inutilmente. Organizzava feste ogni giorno. Ogni giorno la sua casa veniva ristrutturata. Sembrava diversa ogni giorno, piena degli oggetti d'antiquariato più costosi. I suoi amici ne erano colpiti e questo rendeva Sven molto felice. Tutti i suoi amici sapevano che Sven era molto ricco e poteva spendere quello che voleva. Ma tutti i suoi amici sapevano anche qualcos'altro. Sven aveva un talento nascosto. Era un narratore. Raccontava storie come nessuno. I suoi ascoltatori erano incantati dalla sua narrazione. E poi il cielo bevve tutta l'acqua dai mari e dagli oceani fece piovere. Wow, bravo! Eccellente! Hai fatto piovere, Sven. Hai fatto venire la pioggia, Sven! Guadagnerai una fortuna come narratore, amico mio. Ma non possiedo già una fortuna? Certo, ma questi soldi non saranno per sempre, giusto? Non dovrai guadagnare quello che stai spendendo? Non rovinare l'umore della festa ora, forza! Sì! Andiamo! Andiamo! Festeggiamo! Festeggiamo! Andò avanti per alcune settimane. Sì, solo per qualche altra settimana, perché presto i soldi erano spariti. Sven iniziò a vendere i suoi oggetti antichi per coprire le sue spese. Ma non smise di festeggiare o di spendere per i suoi amici. Alla fine arrivò un giorno. Sei al verde. Impossibile. Devo avere un po' di soldi rimasti. Patrick ha chiesto una nuova carrozza. Sono sicuro che posso comprarla. Non posso? No, Sven. I soldi sono finiti. Tutto quello che hai è questa vestaglia, un paio di pantofole e questo vecchio baule. Non ti daranno molto, anche se li vendi. Ah, tutti i miei soldi sono andati. Non ho nemmeno una cosa dove vivere o un letto dove dormire. Ahi, che cos'è questo? Una chiave? Questo baule vuoto ha una chiave. Grande. Boh, cosa? Sto sognando? Sono morto? Ma non era un sogno. E Sven non era certo morto. Non era un normale baule. Era un baule incantato. Fece volare Sven sopra i mari e sopra le montagne. Finalmente il baule atterrò nella terra dei turchi. Sven scese dal baule e lo nascose sotto un albero. Poi vagò per il mercato. Tutti lì indossavano vestaglie e pantofole, quindi nessuno dubitò di Sven. Dopo aver vagato per un po', incontrò un palazzo. Oh wow, che grande casa! Casa? Sei un uovo di questo mondo! Quella non è una casa, quello è un palazzo! Il sultano e sua moglie vivono lì con la loro figlia, la principessa. La principessa? Sì, certo! Ma il sultano e sua moglie sono molto protettivi nei suoi confronti. Non permettono a nessuno di incontrarla facilmente. Bene. Chi ha bisogno del loro permesso? E andò via a vedere la principessa. La principessa dormiva. Era così bella che Sven si sedette e la fissò. Amava guardarla dormire, ma non per molto. Ah! Cosa? Tu chi sei? Oh, non urlare. Io sono Sven. Io sono un angelo. Sì, ecco chi sono. Io sono un baule angelo dei turchi. Un baule angelo dei turchi? Cos'è questo? Uno scioglilingua? Non vi è nulla di simile. Ma sì che c'è. Sono io. Sono qui, sto di fronte a te. Anche se fosse vero, cosa ti ha fatto pensare di poter entrare nella mia stanza senza il mio permesso? Come osi? Non mi interessa chi sei. Ti farò arrestare proprio ora. No, per favore, ti prego. Mi dispiace. Hai ragione. Non avrei dovuto farlo. Misericordia. Smettila di supplicare ora. Dimmi, come sei arrivato qui? Ho volato sul mio baule. E dalla luna. Ci sono delle belle cascate lassù. E laghi, proprio come i tuoi occhi, in cui i tuoi pensieri vanno a nuotare come sirene, e la tua fronte è come una montagna coperta di neve. Non posso togliere gli occhi di dosso. Dimmi, principessa, sai delle cicogne che portano bellissimi bambini dal mare? Oh mio Dio! Tu dici delle bellissime storie, è fantastico! Principessa, mi vuoi sposare? Cosa? Cosa c'è di sbagliato in te? Ci siamo appena conosciuti? Pensavo stessimo avendo un momento. Ah, tu stavi avendo un momento. Vattene ora. Ma perché non posso sposarti? Ti sono piaciute le mie storie, giusto? Sì, è vero? Perché non vieni domani ad incontrare i miei genitori? Amano moltissimo le storie. A papà piacciono allegre e alla mamma piacciono con una buona morale. Se narrerai una storia del genere, allora ti sposerò. Ah, ci sto. Ci vediamo presto, principessa. Sven volò indietro col suo baule nella foresta. Passò tutto il giorno e la notte a scrivere una storia perfetta. Non si era mai sentito così felice prima. Non mangiò, né bevve, né dormì. Presto arrivò il momento dell'incontro con il sultano e la sultana. Camminò nel palazzo con grazia ed eccitazione. La principessa aveva già informato i suoi genitori dell'angelo del baule e della sua bravura con le storie. Non potevano più aspettare. Vi porto i miei rispetti, sultano e sultana. Oh, ok! Iniziamo con la storia. Una volta c'erano dei fiammiferi. Oh, sembrate nuovi qui. Da dove venite? Siamo fiammiferi! Veniamo dal grande albero del pino! Eravamo più ricchi di tutti i ricchi! Potevamo rimanere verdi tutto l'anno! Gli uccelli scendevano e cantavano per noi! Poi arrivò il taglialegna e non poté resistere all'impulso di portarci nel mondo umano! Siamo d'accordo! Tutti avevano bisogno di vedere quanto eravamo importanti! Il capo di famiglia è diventato una nave che può navigare in tutto il mondo, se necessario! E noi siamo stati incaricati di portare luce agli umani! Questa in realtà è una triste storia! La famiglia è stata distrutta! Perché state cercando così tanto di pressionarci se siete così felici di quello che siete? Oh, per favore, signore scatola di fammiferi, sei solo geloso di noi. Sappiamo tutti che nessuno ti cercherà ora che siamo qui. Sei vecchio, non hanno bisogno che tu accenda un fuoco ora. Vorrei che la mia vita fosse così interessante. La parte più irritante è il modo in cui mi puliscono. Mi prude. Posso solo sperare in qualche conversazione con gli altri. Non tutti sono fortunati come noi. Sarebbe così impressionante e bello vedervi bruciare. Cosa? Non dirlo. È una cosa terribile da dire. Non ascoltarlo! Non è affatto terribile! Siamo bellissimi! Non è quello che intendevo! E improvvisamente una cameriera entrò nella stanza. Tutti si zittirono subito. Posò una pentola sul fornello e cercò qualcosa per accendere il fuoco sotto di esso. I fiammiferi speravano che lei li scegliesse, perché volevano impressionare tutti. E questo è quello che successe. Raccolse il mazzo, li accese tutti insieme e li gettò sulla legna. I fiumi come scintillarono e scoppiettarono. Ora lo sapranno! E poi bruciarono. Quindi la morale è: non bruciarti mai per impressionare chi ti circonda. Sii te stesso. Esatto. Che storia fantastica! Splendida! Assolutamente brillante, mio caro. Puoi sposare nostra figlia? Sì, sì, ovviamente. Gli accordi sono presi. Festeggiamo! E così festeggiarono. Tutta la città si era illuminata come stelle nella notte. Oh, devo fare qualcosa di più per impressionarli. Voglio illuminare il cielo. Senza pensarci due volte, Sven riempì il suo baule di petardi e volò in alto per farli scoppiare. Fu bellissimo. Ma improvvisamente... Oh no! Oh no! Che cosa ho fatto? Non posso incontrare la principessa ora. Avevano ragione. Non bruciarti mai per impressionare chi ti circonda. Sii te stesso. Sven aveva imparato una lezione importante. Si era reso conto di essere davvero felice solo quando creava storie e le raccontava ad altre persone. Nient'altro lo rendeva felice. Non i soldi, non il baule, non la principessa. Così iniziò a vagare ed a fare quello che amava di più. Divenne così Sven il cantastorie.